qualche trasmissione è mancata, ma noi ci siamo e credo ci sarà anche 25 o'clock, che andrà dopo il sottoscritto intorno alle 22:30. Un saluto agli amici di Anesplash Sounds, al buon Raffaele, ad Antonio, a Raffaele Cerroni, a Rodrigo Passannanti da Londra, a Gabriel Edri, anch'essa, anch'ella da Londra. Un saluto anche a Wurnus Aylin da Asti. Vi salutiamo, Alessio qui da Roma. Alessandra qui da Roma. E quindi si va ad iniziare e lo facciamo con l'andare a analizzare anche questa sera l'ultimo lavoro ormai del 2012 degli Stormfagel, questo progetto di origine svedese. Di base un duo che ha dato alle stampe ben 4 lavori, in parte con la Cold Meat Industry e gli ultimi due con la Steinklang Industries, questa etichetta austriaca. E questa sera ci andiamo ad ascoltare As We Fall, un brano peraltro a me molto caro, un splendido brano, e la successiva You Will Never Be Remembered, mentre salutiamo anche Tenant Dan, sempre qui da Roma. We'll be right back. era dunque Stormfagel con questo Dotswals, ultimo lavoro del 2012. Un progetto che ruota soprattutto intorno a Andreas Neindart e Eva Mag, quest'ultima di origine ungherese. Un incrocio direi fortunato tra movenze neofolk ed altre più prettamente Marshall. Stormfagel. Salutiamo Francesco e Veronica, improbabile ascolto. E noi si va avanti e si va in Germania. Loro si chiamano Fiernis. In realtà una parte di loro l'abbiamo già conosciuti come Inade o Inade, che dir si voglia. E questo era l'esordio di circa 10 anni fa. Si chiamava Sending Triads and Luminous Arcs. Flash Crimson e Intermediate Nature, le due tracce che lo vanno ad aprire per questi Fiernis. Di nuovo saluto il buon Francesco, l'ascolto è ancora Fearless da questo vecchio lavoro, progetto tedesco. Album Ascending Triads e Luminous Arcs del 2006 attraverso la etichetta di Lipsia Loki Foundation. Ed è partita questa seconda traccia, Intermediate Nature. ascolto dedicato ai tedeschi Fearless. Questo primo lavoro, come ho già detto, Ascending Triads e Luminous Arcs con Knut Erderlein, già degli Inede, Johannes Riedel è uno pseudonimo abbastanza misterioso che risponde al nome di CKS. Quattro album, di cui l'ultimo dal nome Four, ovviamente il quarto, uscito nel 2015. E la loro maggiore attività si è svolta attraverso la Loki Foundation, etichetta storica fondata quasi 35 anni fa. Adesso il turno di Italian Experimental. Underground System Survey. E questa sera è il turno di Disaster Area. Ovviamente più che sotterraneo questo progetto, e la traccia si chiama L'uomo mutabile e modificatore, Disaster Area, da Italian Experimental Underground System Survey. Un saluto anche a Giulia The Kate Lady, sempre qui da Roma. Italian Experimental Underground System Survey, compilation ovviamente ideata dal Raffaele Pezzella, che salutiamo di nuovo da Napoli, conosciuto anche come Sonologist, suo ottimo progetto Ambient. E qui è assemblato il meglio della scena sotterranea italiana, più o meno recente. Qui abbiamo anche una vecchia conoscenza proprio dalla Nesplash Sounds, ossia Bruno Gussoni, qui insieme a Claudio Ferrari in Disaster Area. L'uomo mutabile e modificatore, questa è la traccia che risente un po', almeno credo, della scuola che faceva capo a Stockhausen, Luigi Nono e tutti i grandi artisti di quel tipo di sonorità. Intanto notizia, diciamo, interna della radio, ma non solo: questa sera 25 o'clock non andrà in onda e quindi prove tecniche di trasmissione, sarà l'ultima trasmissione in diretta e terminerà intorno alle 22:30. Torniamo in Svezia, questa volta con Mikael Ideal, una new entry per quanto riguarda la Antezen di Teutonica Memoria. Il rigoroso e oscuro No Man's Land, questo splendido lavoro uscito tra Antezen e Belaten, un'etichetta proprio svedese. Questa è la title track, alla quale seguirà Deep Code. l'eclettico Mikael Ideal, artista svedese. Concordo con Antonio, Antonio da Firenze, con la balladità di questa traccia che ha peraltro anche un retrogusto, direi anche rock, a testimonianza dell'essere così eclettico di Mikael Ideal. Una notevole carriera artistica, molti album al suo attivo, e soltanto recentemente, dopo varie esperienze con etichette svedesi, è approdato alla più famosa Antzen. Quindi una piacevole scoperta, e per questa nuova entrata, questa etichetta a noi così cara. E adesso invece torniamo indietro, e anche di parecchio nel tempo, per andare a riscoprire il primissimo lavoro di Throbbing Gristle, un lavoro ottenuto ingiustamente nascosto per molti anni, chissà perché, e che gli stessi Throbbing Gristle hanno ritirato fuori tanti tanti anni dopo. Quindi 1975, The First Annual Report of Throbbing Gristle. Questa è Ten Pence e World of Sound. Yeah. This time, Mr. Jack Ford, the Civil Defense Coordinator for the Civil Defense.